YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Oh, che puntatona del sabato del villaggio! Sono molto contenta di queste due ore, ma sono ancora più contenta perché alla terza ora mi raggiunge Daniele Bellasio. Ciao Daniele! Sì, dobbiamo svolgere due cose. La prima è, mi hai detto che prima tu hai intervistato uno famosissimo. Sì, allora abbiamo che appena parlato. Anche sul sito del sole24.com. Abbiamo fatto il video qualche tempo fa a Berlino, ma finalmente adesso potevamo mandarlo in onda. Spiegamelo perché io non lo conosco. Ma guarda, lui, infatti c'è Andrea Roccabella in regia che è tutto contento perché lui è un grande fan. Allora, ho intervistato Bob Odenkirk. Questo l'ho sentito nell'ora. Lui è il protagonista di Better Call Saul, che è lo spin-off di Breaking Bad. Non è tutto niente in italiano. Breaking Bad l'ho sentita. Una serie molto. Hanno fatto uno spin-off che è un'altra serie in cui l'attore protagonista è questo signore. È l'avvocato della serie. E tu l'hai intervistato a Berlino perché? Perché c'era la presentazione di tutte le nuove serie di Netflix un mesetto fa e io ho fatto un sacco di interviste che adesso... Che non è facile intervistarlo questo signore, mi dice. No, una superstar, ce l'abbiamo solo noi. Per vedere l'intervista bisogna andare scrivete sul sito del Sole, Pop Style. Anche per leggere un sacco di altre cose, www.sole24ore.com. La seconda cosa è, non chiamiamola più RadioTube, chiamiamola TV Talk, dove... Ma sei invidioso! No, sono geloso, passi più tempo con Massimo Bernardini che con me, scusami. Poi è una trasmissione troppo simile. Grazie Sebastiano Pucciarelli per... O ci sei tu o c'è Cruciani. Non capisco. Perché ci piace, perché è una bella trasmissione. Poi andate lì, fate i critici, gli intellettuali, vabbè. E poi qui niente, non possiamo parlare più di niente. Parliamo no, di Valeria Bruni Tedeschi. Parliamo Bruni di cinema, parliamo di cinema, dai. Allora, è stato il video virale, come si dice, per fare click. Prima ancora che sia virale, tu dici video virale. Andiamo per ordine. Lunedì scorso c'è stata la cerimonia dei David. Di Donatello. Di Donatello, qualcuno dice i David. I David. I David di Donatello. Va bene. Un po' noiosina. Non lo so, non l'ho vista. Vabbè, ma il David di Donatello. Sì, perché che le premi poi noi italiani non le sappiamo. Poi di solito fare, vanno in onda alle 3 di notte. No, era in diretta su TV8, era in diretta su Sky Cinema. Ha fatto notizia un'attrice. Sì, perché Valeria Bruni Tedeschi, premio come miglior attrice per La pazza gioia, a un certo punto si è data alla pazza gioia quando ha ricevuto il premio. Era commossa. Eccola qua. Ringrazio Franco Basaglia che cambiò radicalmente l'approccio della malattia mentale in Italia. Ringrazio Paolo Virzì che mi guarda da anni con tenerezza, allegria e senza paura. Ringrazio la mia amica Barbara che mi propose ufficialmente la sua amicizia il primo giorno d'asilo e mi dette un po' della sua focaccia. Il primo giorno d'asilo. Ma cos'hai? No, cioè sostieni che sta recitando. Ma lo sostieni con le sopracciglia. Allora. E quindi una grande prova d'attrice. Ma certo. Ma tu ancora credi agli attori? Agli occhi blu delle attrici. No, vabbè, questo l'abbiamo capito. Questo di quello. Cosa ti devo dire? È un'attrice, il discorso era già pronto, doveva durare 45 secondi. Poi Franco Basaglia non te l'aspettavi, la focaccia, psicanalista, quando ringrazia tutti questi con lo psicanalista. Ma perché le attrici italiane sono tutte che un po' Ma che noia, io lo dico. poi a costo di diventare proprio populista, dico... Uno dei miei migliori amici fa lo psicanalista, ma non ne potrà più di attrici che dicono lo psicanalista. Però ha aperto un genere, ci è venuto in mente di, cioè, se tu per esempio vincessi un giorno, che ne so, l'Oscar, scarrafone, magari qualche premio l'hai pure vinto, la cuffia d'oro, quelle cose lì, il microfono d'argento. Ho vinto il premio per il miglior tema di tutte le scuole della Brianza in prima media, giuro. Sì, la prima media, non volevo andare così. Io una volta ho vinto il premio Pella per, questa è un'altra cosa. Qualora tu vincessi un premio, cosa diresti? No? Che devi dire lì ringrazio, poi hai sempre paura di dimenticarti la persona che volevi ringraziare di più. Cioè, secondo me è un bel genere. Cosa farei? Solo in piedi sulle sedie. Quello l'hanno già fatto. Così. Vai. And the Oscar goes to vabbè, dai. Non ha dovuto dire neanche il cognome, che lui era già sulle sì, quello vabbè, insomma. Che poi io non mi ricordavo, tu sicuramente che sei esperta di cinema te lo ricordavi, che poi ha vinto anche miglior attore. Certo, dove lì stato... in inglese fa dei lazzi sì, frizzi. Sì, beh, allora è stata una sera molto particolare, bello. Anche perché poi appunto il film era stato distribuito in America e quindi era stato inserito, non noi siamo abituati alla categoria del miglior film in lingua non inglese, invece fu un'altra cosa, insomma, scherzi a parte. L'altra cosa invece quando ti dicono che hai vinto, cioè mm-hmm. per esempio che tu sei lì, stai facendo il GR delle 20, ti chiamano e ti dicono: Marta Cagnola, hai vinto, che ne so, il telegatto. C'è ancora? Che bello. Io ho una campagna, rivoglio i telegatti. Non c'è più il telegatto. Ma te la ricordi la notte dei telegatti? Era bellissima. Era la versione nostrana degli Oscar. Io li rivorrei assolutamente. C'era il red carpet, erano lì al Teatro Manzoni. Era una delle poche cose che accadeva a Milano, non Manzoni, forse. Era il Nazionale. Era una delle poche cose legate alla televisione nazionale che succedeva a Milano. Rifatelo. Vabbè. Ma per esempio è successo a... Intanto, per esempio, no? C'è il Nobel. Sì. Dylan lo va alla fine, in qualche modo lo va a prendere lì in Svezia. E ci unisce due concerti. Vabbè, era già lì. Era già lì per i concerti. Vabbè. Invece, come ha saputo? Ti ricordi come ha saputo Dario Fo del Nobel? Che tra l'altro dice: era 20 anni che stavo per. Senti. Non mi posso neanche mettere. Mi dicono di fermarsi. Guarda che cosa hai vinto. No! Che bello, Dario! No, non lo sapevo, l'ho visto adesso. Ma io non ne parlavo. Hai vinto il Nobel. Io non ne parlavo. Ma è geniale questa cosa. Non ne parlavo perché il motore di scaramanzia è violenta. Però ti ha portato fortuna. Beh, una che non ti piace. Senti, ma a parte Ambra, ma dico anche qui il sospetto che un po' lo sapessero, no? Non lo so. Lei, no, io a Dario almeno voglio credere. No, lui sì. Certo. Ma probabilmente lei, non lo so, c'è la macchina, spieghiamo per chi non l'ha visto. Sì, c'era una macchina, la macchina si di fianco passa sì. E su un foglio, la no? macchina degli autori con il cartello. Hai vinto il nome, hai detto Cotica, risponde lui. Comunque i telegatti erano stati fatti anche al Manzoni, eh? Ah, vedi, non al avevo Manzoni e poi al Nazionale. Fact-checking. No, io mi ricordo al Nazionale perché io lavoravo in una TV locale che aveva sede nella stessa piazza, che si chiama Telenova, c'è ancora, ma non è più lì. Certo, che era. Esatto, ma che era e quindi dalle finestre di Telenova si vedeva il red carpet. Vabbè, comunque diciamolo, sappiate, se volete dare un premio a RadioTube, noi veniamo e ci inventiamo un discorso pazzesco che fa alzare l'audience. Sì, sì. E poi facciamo una cosa. Poi lo mettiamo in rete dicendo il video virale. Ma prima sono ancora arrabbiata con questa cosa che l'hanno postato dopo 10 minuti il video virale. Ma virale di cosa? Ma perché se lo dici lo induci. Lo induci. Insomma, una citazione bellissima che non mi viene in mente. Quindi diamo il traffico. Allora, non ho capito. Ti viene in mente una citazione? Mi viene in mente una citazione che non mi ricordo. Allora diamo il traffico. Esatto. Vabbè, allora voltiamo pagina, traffico, e poi parleremo di anche un po' di politica tra poco. YouTube. Beh, ci siamo divertiti un po' nel primo blocco con un po' di così festeggiamenti. Speriamo anche voi. Ma sì, ci vogliono bene, spero. I nostri radioascoltatori. Ogni tanto qualcuno scappa, telespettatori. Non a me so sempre. Come... Beh, noi ci occupiamo di video alla radio, noi quasi lo possiamo dire. Quello hai ragione. Adesso ci occupiamo anche di libri alla radio. Ci occupiamo di un libro veramente... Io ho cominciato a leggerlo, non l'ho ancora finito, perché è un libro molto denso. È uscito 2 giorni fa, quindi... Perché è un libro molto denso, perché è un libro estremamente documentato. Allora, hai presente quelli che... dicono farò una cosa e poi non la fanno, e non sto parlando di fidanzati, che no, sto parlando anche a volte, ma sto parlando di impegni pubblici oppure di responsabilità che tu hai avuto e che ti devi assumere. Poi, come cantava una che ti piaceva molto, t'appartengo, io ci tengo e se prometto poi dobbiamo mantengo. Parlare di una cosa seria, partiamo da Amber. No, perché qualcuno aveva promesso tempo fa. Ah, volevi partire subito con un video, subito un attacco a Renzi, dai, pronti, pronti e via, una promessa. Una feroce, come dire, cosa antirenziana, vai. O la politica cambia se stessa, oppure ci porta in via tutti, oppure il fiume dell'antipolitica porta via chiunque. è anche il motivo per cui stiamo rischiando l'osso del collo. Io sto rischiando l'osso del collo perché o cambio il paese oppure bisogna che cambi mestiere per primo io, eh. Non è che lo posso dire agli altri. Qualcosa è cambiato, non fa più il Presidente del Consiglio. No, eh? Sì, allora, no, per difenderlo. Che poi dico. Non capisco se voleva dire cambio mestiere e non mi occupo più di politica, non mi pare. Cambio mestiere e non faccio più il Presidente del Consiglio. Esatto, sì, poi ha spiegato nel libro di cui stiamo per parlare, esatto. Si dice che ha spiegato, sarebbe stato vigliacco andarmene. Insomma, il punto non è Renzi sì, Renzi no, anche se ci sono le primarie. Il punto è, com'è che in Italia... il concetto di responsabilità non è proprio all'ordine del giorno? È la domanda che si fa una delle mie giornaliste preferite sul globo delle terranqueo. Nostre giornaliste la amiamo tantissimo e siamo sempre molto contenti di poterla avere con noi a RadioTube. È appena uscita con Irresponsabili, il potere italiano e la pretesa dell'innocenza per i tipi di, come mi piace dire, Rizzoli. Per i tipi di Rizzoli. Alessandra Sardoni, ciao Alessandra! Ciao. Ciao Daniele, ciao Marta. Quanto è stato difficile, Alessandra, mettere insieme questo libro? Perché storie diverse, storie molto diverse. Diverse. Vai a prendere la politica, la magistratura, vai a prendere una bella fetta d'Italia per cercare appunto di capire se ci sono storie di irresponsabilità. Poi ti chiedo anche che cosa intendi per irresponsabili, ma intanto ti chiedo come hai lavorato su questo libro. Allora, ho lavorato effettivamente con molta fatica, è stato laboriosissimo proprio perché le storie erano molto diverse, anche se poi ci sono alcuni personaggi che magari ritornano da una nei vari capitoli, però sono storie radicalmente diverse e però accomunate. Diciamo che io ho scelto il punto di vista, una prospettiva, quindi sono storie di cui magari tante persone sanno, le hanno seguite, e sono state seguite in un certo modo, però le racconto da un punto di vista particolare che è per l'appunto quello della responsabilità intesa non come giudiziaria o penale o diciamo quello che è reato o non è reato, ma proprio dal punto di vista della responsabilità politica individuale, e questo è l'altro elemento. Queste perché, e quindi analizzo, come dire, le vie di fuga, tutti i modi in cui i leader, non soltanto politici, cercano di scartare la dimensione della responsabilità individuale. Vi sentivo parlare di Renzi. Renzi è in realtà il punto di partenza dell'introduzione di questo libro, poi torna per le storie di Lupi e Cancellieri, che sono molto all'ordine del giorno in questo periodo per le questioni dei vari doppi pesismi. Però Renzi era quello che aveva detto, tradurrò accountability, che è la parola anglosassone per responsabilità, la tradurrò in italiano, e aveva promesso di rovesciare uno schema, cioè di far corrispondere alla estrema personalizzazione della politica, che è la caratteristica contemporanea, anche una forte assunzione di responsabilità. Invece, non soltanto Renzi, ma insomma Renzi si era messo su quella scia, ma insomma è una caratteristica nostrana, quella di non far corrispondere a questa persona, cioè il leader personale poi alla fine dovrebbe essere uno con tanta responsabilità, no? E invece uno che anche il leader personale trova mille modi per sfuggirla, e quindi ogni storia di questo libro, ogni capitolo racconta una o più modalità di fuga. E quindi più o meno ci hai già spiegato che la responsabilità e l'irresponsabilità ha svariate sfaccettature, e questa accountability, che potrebbe essere un'ottima espressione in italiano, non ha una vera e propria traduzione o non una traduzione univoca. Non è facile questo? No, non è facile, ha una traduzione che somiglia al rendiconto, perché appunto in inglese ci sono le due parole e in italiano invece non c'è, quindi usiamo l'inglese, ma usiamo l'inglese in realtà per qualcosa alla quale non siamo abituati, perché abbiamo, per tante ragioni, perché a ben guardare siamo soliti utilizzare il modello della burocrazia, cioè il modello di un potere impersonale anche quando è personale, quindi di dire ma io non lo so veramente di chi è la colpa, è impossibile ricostruire le catene di comando, è impossibile sempre trovare alla fine il bandolo di una sola persona. Abbiamo il modello, una modalità è quella per esempio di dire ma io non avevo il potere per fare questo, e quindi di negare il potere è un altro modo per deresponsabilizzarsi. Vero. Oppure un altro modo è quello di dire, è sempre in un certo senso una negazione del potere, dire ma io forse Avrei potuto, però c'è stato un complotto contro di me, c'è stato un intrigo internazionale, per esempio nel 2011 c'erano delle forze molto più forti di me, non potevo resistere, non c'era uno spazio per la responsabilità individuale. E così via. Devo dire che a me è piaciuto molto il sottotitolo, Il potere italiano e la pretesa dell'innocenza, perché mi ha fatto riflettere su una tesi che, insomma, che io sostengo da un po' di tempo. In Italia, non essendoci dei veri poteri forti, noi li citiamo spesso, ma in realtà l'Italia è un paese strutturalmente che nega il potere, quasi non lo dà a nessuno. La nostra Costituzione, in un certo senso, mira proprio a questo obiettivo. Però poi cosa succede? Che quando un leader politico ritiene di averne, a un certo punto della sua carriera pensa che, come dire, sinonimo di potere sia anche, non dico impunità, perché il bello del tuo libro è che non ne fai una questione né etica né giudiziaria, ne fai una questione politica, però come se tutto mi fosse dovuto, cioè ce la faccio lo stesso. È un po' questa la ragione per cui questa irresponsabilità diffusa, come tu spieghi nel libro, fa comodo a tutti? È un po' così, e poi c'è un altro fatto, che responsabilità spesso è sinonimo di potere. No, quando viene detto responsabilità, viene detto chi dice ho la responsabilità e la assume, in realtà vuole dire ho il potere di fare una cosa, e quindi è una fase in realtà anteriore, perché la responsabilità poi si vede magari dopo. E l'altra accezione, se ti è piaciuto il sottotitolo mi fa piacere, è perché la parola innocenza rimanda, diciamo così, a una doppia sfumatura. Una è quella naturalmente dell'innocenza dalla colpa, l'altra rimanda a una dimensione infantile, perché c'è anche questo. Vero. Cioè c'è una dimensione, questa invece è contemporanea, non riguarda nemmeno soltanto l'Italia, è una tendenza più generale. Poi noi abbiamo una declinazione, cioè a noi forse viene più facile, e anzi diventa una giustificazione per la nostra allergia storica alla responsabilità, però c'è una tendenza contemporanea a deresponsabilizzarsi cercando di essere appunto in un certo senso infantili. È una citazione di un filosofo francese che negli anni 90 ha scritto un libro che si chiama La tentazione dell'innocenza, lui è Pascal Bruckner, anche piuttosto noto, e parla di questa tendenza all'infantilismo, che è un altro elemento, e se ci pensiamo bene la troviamo anche in ognuno di noi in realtà, non soltanto nelle classi dirigenti, rispetto alla questione della responsabilità. Naturalmente il libro appena accenna questa questione, è un libro di storie politiche, cronista insomma, da giornalista. E invece siamo bravissimi a trovare dei responsabili alternativi rispetto a noi, cioè nel capro espiatorio, nell'individuare il capro espiatorio, diciamo. Stavo proprio pensando a questo, l'altro lato della medaglia, il capro espiatorio. E certo, il capro espiatorio è perfetto, perché è qualcuno che si è esposto personalmente e quindi, diciamo, ci ha messo la faccia, come si dice a Roma, e non solo a Roma, mette la faccia su un qualcosa, però non ha il potere sufficiente, oppure ce l'ha e poi lo perde. E allora quando lo perde è perfetto, è come uno che mette la testa sul ceppo. E l'esempio è la storia che faccio, lo so che sarà molto impopolare ed è una figura estremamente impopolare, però è quello di Elsa Fornero, la storia degli esodati. Hai assolutamente ragione. Elsa Fornero è il capro espiatorio perfetto, perché si espone personalmente, dalle lacrime in poi, e tra l'altro sempre, anche adesso, non ho mai detto non l'ho fatta io quella riforma, me l'hanno fatta fare, l'ho fatta perché qualcun altro me lo chiedeva. Ha detto sì, ho pure sbagliato sugli esodati. Cosa che poi è vera, naturalmente gli esodati sono un grande caso, un grande problema, direi sono stati perché comunque poi i numeri in una contesa molto aspra, molto dura, molto strumentalizzata anche politicamente tra il Fornero, allora ministro del lavoro, e allora presidente dell'INPS, il potente Mastrapasqua, che dava dei numeri mostruosi, che poi sono stati rilanciati da tutti, da Cesare Damiano, dalla Lega, da chiunque, dalla Camusso eccetera, poi in realtà quei numeri non erano quelli di Mastrapasqua, che stavano quasi costando il posto del suo Fornero, ma erano addirittura 390.200, ma in realtà, lo dice l'ufficio parlamentare di bilancio oggi, sono 160.000 con l'ottava salvaguardia, dove hanno allargato tutte le platee possibili. Quindi per dire che insomma poi le cose, è facile trovare un capro espiatorio. E poi le cose a volte non stanno esattamente come ce le raccontiamo, ce le raccontano. Alessandra, ma la vera notizia sconvolgente è nei ringraziamenti. cioè veramente, attenzione. Tenetevi perché forte. Ringrazio ovviamente il tuo direttore Enrico Mentana. A Enrico Mentana devo l'opportunità, il gusto e l'adrenalina della prima linea. E fin qui io soprattutto non avevo sull'adrenalina, dubbi. Diciamo. Lo conosco, non ho dubbi. E d'altra parte l'inatteso consiglio di prendermi per una volta per un libro il tempo necessario. Cioè ti ha detto... Tra una maratona Mentana e l'altra. Cioè ti ha detto, vabbè, fai con calma. È una cosa vera, cioè è vero che rispetto appunto uno conoscendo Mentana, le sue maratone, la sua passione per la velocità e anche la velocità del suo intuito quando in onda, eccetera, e per quello ho scritto in attesa, non mi sarei aspettata quando gli ho detto che stavo scrivendo un libro, insomma magari mi sarei presa qualche giorno, eccetera, ha detto ma per un libro fai con calma, prendi tutto il tempo. Ed è stato un consiglio che ho apprezzato e di cui lo ringrazio. Fai con calma, ovviamente. Prenditi tutto il tempo, hai dalle 17 alle 18 di oggi, puoi tranquillamente. No, è anche un atteggiamento psicologico, quindi l'ho apprezzato. Grazie Alessandra. Alessandra Sardone. Allora, irresponsabili per i tipi di Rizzoli. Per i tipi di ti piace. A me piace tantissimo per i tipi di. No, infatti la mia domanda era ti piace? Per me piace non tantissimo. Lo so, per i tipi di Rizzoli, irresponsabili, il potere italiano, la pretesa dell'innocenza. Grazie ciao, Alessandra Sardoni, ciao. Grazie ciao. A voi. Ciao. E noi ci vediamo dopo una piccola pausa. Tra pochissimo. Ci vediamo, vedi? Eh sì. Usain Bolt si mette in scia, attenzione che spinge fino in fondo, alto record del mondo! Garozzo e c'è la stoccata, la conferma la stoccata, Daniele Garozzo è campione olimpico. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. I miti, le verità, le leggende e i segreti dello sport. Sono Dario Ricci. E vi aspetta Olimpia, ogni domenica alle 20:30, naturalmente qui, su Radio 24. Radio Tube. I did answer your question. No, you did not. You did not answer the question of why the president asked the White House press secretary to come out in front of the podium for the first time and utter a falsehood. Why did he do that? It undermines the credibility of the entire White House press office on day one. Don't be so overly dramatic about it, Chuck. What you're saying it's a falsehood, and they're giving Sean Spicer, our press secretary, gave alternative facts to that. But the point remains. Wait a minute. Alternative facts? Alternative facts proprio è la frase del momento, è la cosa del momento. 22 gennaio 2017, Kellyanne Conway, personaggio pazzesco, sì, una donna per certi versi stupendo, per altri agghiacciante, consigliera possiamo dire di Donald Trump, ma di più. In questa intervista Mid the Press viene inchiodata a questa responsabilità. Donald Trump ha detto il falso e lei dice alternative facts. Perché cioè, i fatti non sono univoci, ce ne sono una di alternative. Alternativa. Sì, però non dovrebbe esserci quando fai di mestiere il giornalista o di mestiere colui che comunica con i giornalisti. E quindi bisogna controllare quello bisogna che controllare in questa era della post-verità, tutte parole molto di moda, ma forse c'è un modo per evitare tutta questa confusione, cioè semplicemente controllare, verificare, avere la passione di andare a vedere. Allora, sai cos'è? Domani, domenica 2 sì, aprile, sì, è il Fact Checking Day, cioè la giornata internazionale dedicata al fact checking. Allora, in questo periodo si sorride un po' in rete perché ogni giorno c'è la giornata di qualcosa. Sì. Ma questa. La giornata delle giornate. La giornata delle giornate. La giornata mondiale delle giornate. Questa mi pare importante, sai? Simpatico, perché pone l'accento su un. Insomma, una cosa che dobbiamo fare alla fine, tutti noi. Certo, noi giornalisti siamo. È il nostro mestiere, la nostra professionalità, però poi tutti hanno un qualche interesse ad andare a verificare l'accuratezza dell'informazione, soprattutto in un mondo in cui tutti possono diffondere quella che può sembrare essere informazione. Quindi una cosa importante è ad esempio insegnarlo ai ragazzi, come potersi un po' orientare tra le notizie che girano in rete per capire cosa è vero e cosa non è vero. Allora, domani Giornata internazionale dedicata al fact-checking, domani si terrà il primo evento in Italia pensato per insegnare ai giovani come informarsi online in modo più consapevole. Lo hanno organizzato insieme Sky Academy di Sky Italia e Fact Checkers, è il primo evento di Educational Fact Checking. Un po' difficile perché ci sono un sacco di parole inglese, 100 ragazze tra i 15 e i 18 anni domani si metteranno alla prova del riconoscimento delle fake news, cioè le bufale. Allora, saranno tutti nella sede di Sky a Milano Santa Giulia, e come si aiuteranno questi ragazzi a imparare? Facciamocelo raccontare. Sì, anche perché magari impariamo qualcosa anche noi. Abbiamo il fondatore di Fact Checkers, che è una realtà che è appena nata. Andate a curiosare il sito factcheckers.it. Nicola Bruno, buonasera Nicola. Buonasera, ciao a tutti. Allora, quanto è importante insegnare come si distingue la notizia vera dalla fake news? Sì, diciamo che è fondamentale, come ha ribadito di recente anche un responsabile dell'OCSE che valuta nel mondo quali sono le scuole migliori, perché è una questione che riguarda la nostra vita quotidiana da molti punti di vista, non so, per i partiti a cui votiamo, per i vaccini, se decidiamo di farli o non farli, a seconda di cosa ci informiamo, anche per il benessere e la salute, esempio, non so, il cioccolato fa dimagrire, si trova online, è vero o falso? Ne mangio tanto, ne mangio poco. Diciamo che il tema riguarda appunto tanti di quegli aspetti della vita quotidiana che soprattutto toccano da vicino la vita dei giovani, dei più di chi ancora appunto si sta affacciando al mondo dell'informazione e spesso non ha gli strumenti per poter verificare se è vero o falsa. Noi siamo nati proprio per questo obiettivo, per portare quella che è una competenza prevalentemente giornalistica, la verifica dei fatti, per portarla anche fuori nei contesti educativi, quindi nelle scuole, nelle famiglie, con gli studenti, i docenti, i genitori e i figli, perché appunto non dimentichiamo che poi il problema non riguarda solo i giovanissimi, ma riguarda anche chi si relaziona con loro, che sono i docenti e i genitori. E come lo facciamo? Lo facciamo con alcuni formati innovativi che abbiamo messo a punto negli ultimi mesi, che sperimenteremo appunto con 100 studenti. I ragazzi saranno accolti subito, li caleremo in media res con un quiz interattivo per cercare di capire un po' quali sono le loro competenze, se riescono a riconoscere delle piccole bufale o meno online, a partire da alcune competenze base che abbiamo stabilito insieme ai ricercatori di Media Education. Bisognerebbe formare a questo punto anche i professori di scuola, però, perché dovrebbe essere una materia questa. Sì. Assolutamente sì, è il nostro auspicio che diventi una materia, così come c'era l'educazione civica, ci dovrebbe essere anche l'educazione ai media, ai fatti, meglio ancora. Sì, non che non sia più di attualità studiare anche la Costituzione, ma secondo me bisogna un po' allargare. Nicola Bruno, ci racconti qualche attrezzo del mestiere del fact checker? Come lavora un fact checker? Anticipaci, sì, noi qualcosa. Abbiamo creato una guida con un decalogo sul nostro sito factcheckers.it, dove diamo appunto le dritte, quelle più semplici che chiunque può mettere può provare senza essere per forza uno smanettone o un nerd. Prima regola: controllare sempre l'indirizzo web. La maggior parte delle bufale che circolano adesso online arrivano da siti che millantano i nomi di siti più famosi, ad esempio c'è la Gazzetta della Sera, Il Fatto Quotidiano, Repubblica e via dicendo, quindi controllate sempre l'indirizzo URL. Se siete sui social network, controllate se c'è la spunta blu. La spunta blu non tutti lo sanno, ma è uno strumento che ha introdotto Facebook, Twitter, Instagram per dire che quell'account è verificato. Che sia verificato non vuol dire che è attendibile, però comunque ti dà qualche indicazione in più sul fatto che la fonte che stai leggendo, ad esempio, è effettivamente Radio 24 e non un'altra fonte che millanta Radio 24. Poi diciamo di diffidare dei titoli tutti in maiuscolo con i puntini sospensivi e troppo urlati. Quando trovate shocking, sensazionale, eccezionale, quello che i giornali non vogliono dirvi. Esatto, quello che non vogliono dirvi i media e via dicendo, perché quelle sono le tecniche base di quello che viene definito clickbaiting, cioè acchiappa click. Per acchiappare un click ti metto un titolo forte, urlato, magari dove non finisco di dire bene quello che il contenuto della notizia, con i punti sospensivi, così vieni sul mio sito. Una volta vieni sul mio sito visualizzi la pubblicità e ogni pubblicità visualizzata per me sono centesimi che metto in tasca per me, ecco, che producono notizie false. E questo è importante farlo capire, che servono sia per indirizzare magari un movimento d'opinione, sia per farci dei soldi. E quindi, sì. Ecco. Ma posso fare una domanda rozza? Ho paura. Ma secondo te in rete vincono i fake o vincono le notizie? Insomma, possiamo essere ottimisti sul futuro dell'informazione in rete o no? Sì, secondo me vince assolutamente le notizie, penso ci sono anche degli studi che lo dimostrano. Quello che io spero è che, se l'anno scorso, come dicono tanti, è stato l'anno delle fake news, della post-verità, via dicendo, spero che il 2017 diventi l'anno del fact-checking. Vabbè, a quel punto hai stravinto. In cui tutti noi assumiamo come orizzonte comune il fatto che le fonti vanno verificate, qualsiasi fonte, tra l'altro noi non stiamo a dire solamente le fonti di internet, le bufale che agiscono su internet, assolutamente no, anche le fonti tradizionali, anche e come? I TG o i giornali sono delle produttori di bufale a go-go, quindi di verificare comunque tutto. Più che altro si tratta di un atteggiamento mentale, no? Non devi essere un credulone, non devi, prima di fare share, like, qualsiasi azione, pensaci un attimo su. Mi piace molto perché il processo cosa. Della verifica è bello, può appassionare di per sé il viaggio a ritroso del titolone per arrivare alla... anche perché a volte noi parliamo di vero e di falso, ma poi c'è anche la questione dell'accuratezza, me l'hanno detto in un modo diverso, quindi abituarsi a verificare ogni passaggio dall'inizio della storia al titolone è una cosa anche appassionante, può essere stimolante dal punto di vista intellettuale. Sì, diciamo che tra l'altro, come dice sempre Stefano Morigi, che è docente dell'Università di Coca con cui collaboriamo per questo progetto, le migliori bufale non sono quelle false, sono esatto. quelle che sono vero e falso, cioè esatto. ti prendo un elemento vero, te lo metto in un altro contesto falso e funziona benissimo. Certo, se io faccio una notizia degli asini che volano, uno non ci crede, ma se dico se parto da una cosa vera e poi sì, la coloro. A volte si pensa che i fact checkers siano un po' non i nemici, ma insomma gli antagonisti dei giornalisti, cioè il giornalista lavora, il fact checker sta lì a fargli le pulci. Invece voi di fact checkers siete anche giornalisti, cioè nel team che ha ideato questa associazione ci sono dei giornalisti, quindi si lavora insieme, cioè il giornalista deve essere consapevole per primo. Assolutamente, anche perché fa parte dei nostri doveri, diciamo, più che delle nostre passioni, quindi dovrebbe essere assolutamente integrato. Poi ci sono, non so, culture come quelle anglosassone che hanno proprio i fact checkers nelle redazioni, certo. pensi al New Yorker o altre testate, in cui è proprio un ruolo specifico. In altre, nella cultura europea non c'è molto questo ruolo, però deve essere una delle competenze del giornalista proprio. Io mi immagino che tu, quando apri i social network, passi metà del tempo con gli occhi rivoltati all'indietro che si vede solo il bianco. Ma, sai, poi quello dipende anche da quello che si dice, sono le tue bolle, ognuno di noi sì. ha una bolla e quindi basta. Sì, ma ci sono anche gli insospettabili, perché anche gli insospettabili a volte condividono di quelle cose che dici non sì, ci posso poi naturalmente credere. Il processo di verifica non deve essere nemmeno una caccia alle streghe. Io certo. Chiunque può sbagliare, più che altro l'atteggiamento, chiunque può sbagliare, chiunque può diffondere anche involontariamente, ad esempio, una notizia non vera, quello che cambia è l'atteggiamento, no? Cioè me ne accorgo, rettifico, lo faccio notare e non faccio finta di niente, come fa chi invece vuole ingannare, diciamo che i veri produttori di fake news e chi vuole ingannare in maniera consapevole. Cioè posso, se casco in un errore è un conto, se invece la costruisco un altro. Assolutamente, questa è una cosa che diciamo sempre ai ragazzi, per non fare appunto adesso questa caccia che è scattata alle fake news. Ma quello che noi cerchiamo di dire è che gli strumenti che gli diamo servono sia per dire che un contenuto che hanno visto online è falso, ma anche per dire che è vero, perché magari appunto adesso i contenuti li può produrre chiunque, si trova su un evento, fa una foto, è autentica, però se hai la cultura del dubbio dicendo o no, non è vera perché non so chi è quella persona, in realtà con un po' di strumenti, un po' di accorgimenti puoi verificare anche contenuti che trovi online, che sono veri, che sono autentici. Io adoro l'ultimo punto del decalogo dell'esploratore di anche notizie digitali, ma è anche molto accattivante, sì, perché sì, poi infatti. I ragazzi lo guardano con mostra lo smartphone, la radio, quindi... fallo vedere nel sì, microfono. Sì, adesso lo faccio vedere, perché i ragazzi poi lo guardano con lo smartphone, deve avere una grafica, insomma, appealing, che l'ultimo possa punto? Piacere. Pensa prima di condividere. Beh certo. Questa regola del New York Times, se hai un dubbio se condividere o no, non farlo. Non farlo, pensa. Ciao Nicola! Grazie Nicola. Ciao. Bruno, factcheckers.it, quindi domani è la giornata internazionale del fact checking, quindi il fact checking day, bella questa iniziativa di Sky Academy per aiutare i ragazzi a orientarsi. Sai cos'è la cosa migliore alla fine? Fare pulizia nelle timeline, quella è una cosa proprio, è quasi come quando dall'armadio nel cambio di stagione togli vero, quello che non hai mai vero, messo vero. O che non ti è servito. Adesso facciamo una piccola pausa. Una piccola pausa, poi abbiamo l'ultimo traffico, spicchietto traffico, di Radio Tube. Sai cosa? C'è un po' sonno. Ma io. Con la citazione? Sto ancora pensando alla citazione dall'inizio della trasmissione. Una, tu hai sonno. Una biocchina, ne parliamo dopo. Faircam Distribution, la soluzione adatta per la spedizione dei vostri prodotti in Italia e in Europa. Faircam.com. vi presenta Radio Tube. Come passa il tempo quando ci si diverte. Si arriva così all'ultimo spicchietto di RadioTube. Wow, che te lo spicchietto, sì, infatti è l'ultimo spicchietto. Avvisiamo voi lì che state, come dice Milan, mani sul volante. Mani sul volante. È il blocco trash, proprio il blocco del, come dice Cruciani, siamo al top, siamo della televisione, top. Citiamo tutti. Senti, allora. Sì. Adesso sono sentirete cose parlare. Sì, sono cose importanti perché comunque, certo, riguardano il caso della settimana. Certo. Ditelo in coro voi lì che state guidando. È il caso protezionismo, Brexit. Il caso, che cosa è successo? Il caso qual, no, Magalli. Il caso Magalli. Magalli. Sessista Magalli, sessista. Ma come fanno a condurre? Cioè, a noi è successo, allora, abbiamo litigato pure peggio, abbiamo continuato a condurre, sì. Condurre, una volta nel mio caso una condurre volta la parola grossa. Una volta ho cercato di tirargli un Blackberry, che pesava anche. Ma avendo una cattiva mira non ho preso Bellasio, ho preso e una volta muro. Io non venivo a fare la trasmissione. Mamma mia, non quella scendevo, volta che non scendeva. E ti mancava pochissimo. Scendi, abbiamo già l'ospite. Daniele, scendi, manca però, la... però io no. Attenta. Una delle cose per cui Magalli si è arrabbiato, tu lo fai spesso. Spessissimo, cosa faccio io? Di darmi del vecchio. Ma dico anche che però io sono più vecchia di te. No, vabbè, non lo sentiamo dici quello, cosa ha detto Adriana Volpe. Volpe. Adriana Volpe, sentiamo. A Giancarlo Magalli. E comunque la terza età si è spostata, sappiatelo. Io ne sono ampiamente fuori, insomma. Qui ormai è oltre i 75, credo, la terza età. A luglio tu fai 70 anni, no? Via della Lanzacoccia. Che bella. Qui, beh, che non dicono l'età che c'hai te. È un bel traguardo. Grazie, tante cose. Ma fatti gli affari tuoi, no? Allora, no, ma hanno litigato davvero. Dimenticati mentre... quella volta che non volevi scendere, che io ti supplicavo via messaggio. Quella è stata una... Comunque, io ti dico sempre che sei un po' vecchio dentro. Sì. Però dico, ammetto anche che anagraficamente io ho un anno in più. Ho un anno e cinque giorni ma più di non te. Stare a specificare, come diceva Magalli, quindi... Lei però... La litigata sembrava falsa, cioè sembrava che non se la fossero presa, non falsa, scusi, volevo dire, sembrava che tutti e due... Forse per scherzo. Ma come faranno? Non lo so, però cioè... allora, di la verità, con chi stai, con Magalli o con la Volpe? No, allora, adesso non si può dire, ogni volta che uno dice qualcosa l'insulto è sessista. Ma non, cioè, mi fai esprimere, ma non lo so. Io mi esprimo. A me stanno simpatici tutti. Perché poi lei è simpatica? Io mi esprimo. Quindi... Lei è un'inzighina. Lei è un lello inzighina. Però scusami, tu stai anche conducendo con Magalli. Quanti anni è che conducono assieme? Non lo so. Magalli poi l'hanno candidato alla presidenza. Non lo so. E lui su Facebook ha scritto. Cos'è che ha scritto? Che l'ha toccata un filino pesante. Non ha specificato, ha detto: e se io raccontassi perché tu lavori da 20 anni? Una roba del genere. Però ecco, perché sei brava, secondo te, intendeva dire. Sì. No, perché il pubblico apprezza quella fascia di programmazione. Sì, vabbè, insomma. Ma poi voglio dire, vabbè, insomma. Allora, invece c'è un altro problema. C'è Sgarbi che praticamente, vivendo in televisione, quando non è al telefono con la Zanzara, è in televisione. Ed essendo sempre in televisione... Te l'ho detto io, c'ho un po' di abbiocchino sì, a quest'ora io. Anche lì sembrava falso, ma anche sembrava vero. Sentiamo, valutate voi se si è addormentato davvero in diretta Vittorio Sgarbi. Come fanno queste persone a vivere in mezzo a noi? In un quartiere che sta aumentando sempre più. È una zona! È una fatemi zona vedere se vivo ancora Vittorio Sgarbi. Sono due! Il problema... Vittorio! Scusa, ma si può intervenire? Vittorio Sgarbi, inquadratemelo un attimo. Sgarbi... Ci sente? Allora, fatemi salutare tanto il conduttore di Dalla Vostra Parte, Marcello Vino Nuovo. Ciao Marcello! Ciao Marcello! Quanto te la sei divertita! Sì, perché Marcello è stato tanti anni fa uno stagista di Radio 24, era un bambino. Tanti. Ai noi, tanti. Era un bambino, adesso è diventato grande e diventato un bravissimo conduttore. Hai visto come dormiva con classe? Cioè, ha solo reclinato leggermente la testa, Vittorio, sì, Sgarbi, e poi... Poi il conduttore appunto è stato bravo perché stava per fargli una domanda, ha intuito che probabilmente non aveva capito quello che era successo prima, visto che stava probabilmente sognando, pensando ad altro, e quindi ha detto no, ti do un attimo di tempo, e è andato un'altra parte. Però il conduttore vero sì, la sfruttava, no, dice, no, perché no, devi essere no, no, no, non sono cinica. Lui era sulla notizia perché ha detto sei ancora vivo, e poi ha detto inquadratemelo un attimo, sì, perché beh, così certo. No, perché dai, Vittorio Sgarbi in televisione funziona persino quando dorme, figurati quando non dorme. Lo so. Sai che abbiamo mi fa deciso benissimo questa cosa di Sgarbi che dorme. No, ma era tutta so la perché... settimana che la gente si addormentava, è tutta una settimana, è perché sì. C'è la primavera, c'è stata sì, l'ora sì. legale, che è una roba terribile, abolitela. Io terrei sempre l'ora legale, ecco, teniamo sempre l'ora legale. Orologio solo in casa che non si cambia da solo e non lo cambio mai. È io non cambio mai legale. Quello della macchina, hai presente? No, io quello della macchina lo cambio e io ne ho uno perché in cucina. Perché devi arrivare in tempo per il GR sì, delle 7. Sì. Allora, quello della cucina non lo cambio mai. Colorari. E quindi lascerei sempre sei l'ora mesi legale. L'anno funziona, sei mesi, amen. Ecco, quindi giustamente hai detto che secondo te è per colpa dell'ora legale. Si è addormentata anche una signora, mi hai detto. Sì, da Bonolis. E Bonolis non l'avrà notato. No, per niente, non ha proprio fatto un siparietto. Non ha sfruttato la cosa, no, per niente. Per nulla, vuoi sentirla? Sentiamolo, Lara. Vediamolo, Lara. Questa canzone, troviamo questa canzone. Che c'è? Che fanno dei segni? No, mi fanno dei segni. Beh, io so veramente. Sì, adesso è un carissimo. E dunque. E questa è la radio che fa. La radio fa. Non credo che le piaccia tantissimo quello che sta facendo. Sa, lo so. Comunque io devo andare avanti. Basta. Buongiorno. Come sta? S'ha addormita la spettatrice, s'ha addormita. Avanti un altro, evidentemente, ma non lo non so. Non creata, no. No, ma no, secondo spontanea. Me, allora, un po'. No, cos'è che, secondo spontaneissima me... proprio, figurati. Secondo me la signora se la stava ronfando davvero? Sì, sì, vabbè. No, c'erano i signora... sottotitoli. Occhio che adesso si addormenta una spettatrice. Allora, io... Cher, impennati. Non siamo mai d'accordo. Io non credo a Valeria Bruni Tedeschi, tu non credi alla signora di Bonolis. Ma non lo so, sto ancora pensando alla citazione. Stasera non mi addormenterò perché non mi viene in mente la citazione. Com'è che non trasmettiamo La Perego che piange? Che questo ci stava. Vuoi sentire La Perego che piange? Vabbè, già che ci siamo in questo vabbè, blocco allora, al top. Anche un po' di Paola Perego che piange. Come stai? Male. Male perché? Perché mi sento messa in mezzo in una cosa molto più grande di me. E poi? Sto male per tutte quelle persone che fidandosi di me mi hanno seguita in questo programma ed ora resteranno senza lavoro. Raccontaci cosa ti è accaduto. Sono disorientata, questa è la parola giusta. Ancora non me ne rendo conto di quello che sta accadendo. Ti senti un capro espiatorio? È tutto troppo surreale. Cioè? Cioè mi hanno messo in mezzo in una cosa che è molto più grande di me. E come ti senti? Sono disorientata, spaventata. Non riesco a rendermene conto. Vedo i giornali e mi sembra una cosa surreale che non sta capitando a me. Hai paura? Non ho ancora metabolizzato. Non riesco a capire bene che cos'è questa violenza contro di me. L'hai vissuta come una violenza? Una violenza terribile, brutta. E perché a te? Io non me lo merito. Io credo di essere una brava persona. Che idea ti sei fatta? Che mi hanno messa in mezzo. In che senso? Che è qualcosa di molto più grande. Spiegati meglio. C'è gente che ha bestemmiato. Hanno intervistato il figlio di Totorina facendogli l'altarino. Abbiamo visto in televisione qualunque cosa. Era un gioco. È scoppiata la bomba, ma la bomba non c'è. E quindi si parla ancora anche di Paola Perego dopo una settimana. Dunque, adesso noi, quanto ci manca? No, abbiamo usiamolo ancora un paio per di litigare. Minuti. No, dai. Allora, sulla Perego. No, tra di noi che così. No, sì, perché facciamo audience, no? Diventiamo virali. Litigata a Radio Tube. Esatto. Sì, vi salutiamo. Allora, facciamo dei ringraziamenti. Ringraziamo. Per bene, ringraziamo Cristian Goldoni che anche questa settimana ci ha aiutato a portare in salvo e in porto la nave di Radio Tube. E anche un po' il nostro fact checker, Chris. Tra le tante cose, è sì. anche il nostro è assolutamente il nostro fact checker Andrea Roccabella che la barba più bella della stavo radio. Dicendo che nonostante ti faccia sempre tutta questa invidia però non ce l'hai più la quando la fai ricrescere perché non reggevo il confronto quando tra poco credo tra... questo weekend questo domani weekend. Ah anzi, questo, da domenica la barba. La prossima settimana ti vediamo con un po' di barba. Ringraziamo Andrea Roccabella in regia. Noi diamo l'appuntamento, io, Daniele Bellasio, se la barba di Daniele nel Bellasio, al prossimo sabato. Ciao. Ciao.